Mosè è certamente il personaggio biblico più conosciuto perché, oltre a essere citato circa 800 volte, di lui parlano in modo diffuso 4 libri della Bibbia. Eppure, non tutti hanno colto che la persona di Mosè è legata in modo particolare ad un oggetto senza il quale Mosè non sarebbe diventato quello che in seguito è diventato, cioè il suo bastone. Il bastone che ha accompagnato Mosè per 2/3 della sua vita era l'oggetto indispensabile del suo mestiere. Infatti Mosè era pastore e un giorno, mentre pascolava il gregge di suo suocero, si trovò faccia a faccia con l'Eterno, la divinità dei suoi padri. L'Eterno lo mandò a liberare gli ebrei schiavi del faraone, ma Mosè avanzò tante ragioni per non andare. Al capitolo 4 del libro dell'Esodo leggiamo: Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: l'Eterno non ti è apparso. L'Eterno quindi gli disse: che cos è quello che hai in mano? Egli rispose: un bastone. L'Eterno disse: gettalo a terra. Egli lo gettò a terra, ed esso diventò un serpente, davanti al quale Mosè fuggì. Allora l'Eterno disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano e lo prese, e nella sua mano esso divenne un bastone. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe ti è apparso. Esodo 4:1-5. Nonostante questo segno, Mosè ricalcitrava all'ordine di Yahweh, così il Dio dei suoi padri diede altri segni della sua potenza, e alla fine Mosè, pur ancora indeciso, andò. Il racconto prosegue dicendo: così Mosè prese la sua moglie e i suoi figli, gli pose su un asino e tornò nel paese d'Egitto. E Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio, Esodo 4:20. Da questo momento in poi il bastone di Mosè diventerà il bastone di Dio, due realtà divise ma inseparabili. Per 40 anni Mosè compirà prodigi davanti a tutto il popolo di Israele mediante il bastone, e tale sarà il rapporto così stretto tra il bastone e Mosè che un fanatico religioso potrebbe pensare che il bastone di Dio avesse delle proprietà intrinseche, soprannaturali. Ma non è così. Sebbene il bastone di Mosè rimanga un semplice bastone, tuttavia da esso si possono trarre degli insegnamenti utili, perché tutti noi abbiamo il nostro bastone. Non ci volle molto perché Mosè usasse il suo bastone per dimostrare che egli stava operando da parte di Dio. All'inizio, davanti al faraone, Mosè fece dei prodigi con il bastone di Aaronne, ma in seguito, quando si trattò di provocare tuoni, grandine e fuoco che cadeva saettando sulla terra, Mosè stese il suo bastone. Esodo 9:23. Così fu anche per provocare l'invasione delle locuste e delle tenebre. Mosè stese il bastone di Dio. Dopo le 10 piaghe che l'Eterno mandò in Egitto, il popolo di Israele uscì dal paese della schiavitù e si incamminò verso la terra promessa, ma ad un tratto si trovò in una situazione a dir poco tragica. Il popolo aveva davanti a sé il Mar Rosso e dietro gli egiziani, intenzionati a ucciderli per farli nuovamente schiavi. Il popolo di Israele era disperato. Però leggiamo nel libro dell'Esodo: ma Mosè disse al popolo: non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che egli compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Quindi l'Eterno disse a Mosè: perché gridi a me? Di ai figli di Israele di andare avanti. E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare, all'asciutto. Esodo 14:13-16. Il bastone di Mosè, ecco la risposta davanti ad un ostacolo insuperabile. L'Eterno disse di alzare il bastone, segno evidente che tutti potessero vederlo. Ma non ci volle molto che il popolo di Israele si lamentasse nuovamente perché era in grande difficoltà a causa del deserto. Mancava infatti l'acqua. Ecco cosa leggiamo nel capitolo 16 del libro dell'Esodo. L'Eterno disse a Mosè: Passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi anche nella tua mano il tuo bastone col quale percuotesti il fiume, e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia in Horeb. Tu percuoterai la roccia, ne scaturirà dell'acqua, e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele. Non vi era difficoltà che non fosse risolta tramite il bastone di Dio. Mosè percosse la roccia con il suo bastone e ne scaturì l'acqua. Il bastone di Mosè ormai era conosciuto da tutti. Tutti avevano visto ciò che era in grado di fare tramite Mosè. E per questo, quando Israele dovette combattere contro Amalek, Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano». Esodo 17:9. Non poteva esserci un incoraggiamento più grande. Tu, Giosuè, combatti e io pregherò avendo con me il bastone con il quale fino ad oggi ho fatto tutti quei miracoli che hai visto. Dunque, nulla ti sarà impossibile. Passano circa 40 anni e il popolo di Israele, dopo varie vicissitudini, era ormai prossimo per entrare nella terra promessa. Ma le difficoltà non sono ancora finite e il popolo che Mosè aveva fatto uscire dall'Egitto si trova di nuovo senza acqua, lamentandosi a morte con Mosè ed Aronne. Nel libro dei Numeri leggiamo il seguente episodio. Poi l'Eterno parlò a Mosè, dicendo: «Prendi il bastone. Tu e tuo fratello Aronne convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia ed essa darà la sua acqua. Così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame». Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè ed Aronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse loro: «Ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia?» Poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza, e l'assemblea e il suo bestiame bevvero. Allora l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete creduto in me, per dare gloria a me agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro». Numeri 27:12. Ancora una volta l'Eterno vuole compiere un miracolo e ordina a Mosè di prendere il bastone che era davanti all'Eterno, gli ordina di andare davanti alla roccia e di parlare alla roccia perché facesse scaturire l'acqua. Forse per Mosè non era la giornata ideale, perché, dobbiamo ricordarlo, era un uomo sottoposto alle stesse passioni come noi. Giacomo 5:17. O forse Mosè si sentiva insicuro di riuscire ad ottenere che l'acqua scaturisse dalla roccia. Ma sta di fatto che Mosè non parlò al sasso, ma lo percosse per due volte. Yahweh rintroverò Mosè ed Aronne per aver mancato di fede e per questo non entrarono nella terra promessa. Triste storia. Triste epilogo. Mosè ed Aronne avevano sopportato per 40 anni un popolo ribelle, ottuso, ingrato, ma ora per un atto di incredulità erano esclusi nel vedere la terra promessa. E, vero che ci è stato un atto di incredulità da parte di Mosè, ma è anche vero che l'uomo di Dio si servì del bastone per fare scaturire l'acqua. È vero che non ha parlato al sasso, ma è anche vero che ha avuto fede, che con il bastone mediante il quale ha compiuto miracoli ancora più grandi, potesse fare scaturire l'acqua. In un momento di debolezza, Mosè ha usato quel bastone che lo aveva accompagnato nei momenti più difficili. Una debolezza che lo stesso salmista riconosce con queste parole: «Essi lo provocarono ancora presso le acque di Meriba, e ne venne del male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo di Mosè spirito, ed egli parlò avventatamente con le sue labbra». Salmo 106, 32-33. Il bastone di Mosè è un insegnamento per tutti. È vero che Mosè ha preso il bastone per colpire il sasso, ma dobbiamo anche riconoscere che era stato l'Eterno ad ordinargli di prenderlo. Perché l'Eterno ha ordinato a Mosè di prendere il bastone se poi gli ha detto di parlare solamente al sasso? L'Eterno poteva evitare che Mosè commettesse un atto di incredulità dicendogli di non prendere il bastone. Poteva farlo, ma non lo fece. Così, ciò che per Mosè era uno strumento di benedizione per sé e per gli altri, si trasformò per lui in ragione di condanna. Quel bastone che lo distingueva da ogni altro ora è un mezzo di colpevolezza. Così è per ogni creatura e per ogni credente. L'Eterno Dio ha dato il dono dell'intelligenza e dell'eloquenza, e con simili doni l'uomo riesce nella vita, si realizza, ma quando l'intelligenza e l'eloquenza vengono strumentalizzate per i propri fini, allora ciò che è dono si trasforma in danno. Il padre della fede, Abramo, aveva il dono naturale della sessualità, ma lo usò per ottenere i suoi obiettivi andando con la sua serva, Agar. Il re Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, era intelligentissimo, accorto, ma usò la sua intelligenza e la sua accortezza per compiere un omicidio e un adulterio in tutta regola. Leggiamo nel libro degli Atti che Barnaba era un uomo con un grande spirito di aiuto, ma quando si trattò di interessarsi del cugino Marco non fu più obiettivo. Quindi, il bastone che Dio ha dato a tutti noi, cioè i doni naturali e spirituali, sono strumenti eccellenti per onorare Dio, ma possono essere pure la nostra condanna. Un predicatore può inorgoglirsi della sua versatilità, uno scrittore del suo talento, e così della libertà. L'uomo ha ricevuto l'inestimabile dono della libertà, ma proprio questo dono, quando è usato con orgoglio, lo porta alla condanna eterna. Notiamo che i doni anche abusati non impediscono a Dio di farci del bene e di benedire il prossimo. Mosè peccò di incredulità, ma l'acqua sgorgò ugualmente. Abramo fu impaziente, ma il figlio lo ebbe lo stesso. Davide peccò gravemente, ma divenne comunque un grande re. Barnaba non fu obiettivo, ma aiutò lo stesso suo cugino. Però questi uomini persero delle benedizioni. Mosè non entrò nella terra promessa. Abramo generò una stirpe che ancora oggi è contraria a Israele. Davide ebbe guerre continue in famiglia. Barnaba perse come compagno Paolo. Noi spesso cerchiamo le benedizioni di Dio in rapporto alla nostra fedeltà, ma lo scopo della nostra vita non deve essere quello di vedere quanto Dio ci benedica, ma quanto noi siamo fedeli nell'amore e nella verità. Noi dobbiamo usare il bastone che Dio ci ha dato, ma confidando troppo nelle nostre capacità, mettiamo Dio al secondo posto. Che i doni e le vocazioni di Dio non ci facciano cadere nell'orgoglio. Luglio 2005. Ellero,